vestiti nuovi dell'imperatore. C'era una volta un imperatore. Era molto ricco, ma egli non fu mai un buon governatore. Tutto quello che a lui interessava era avere per sé tanti vestiti nuovi. L'imperatore usava indossare un nuovo vestito tutti i giorni. L'imperatore ordinava al popolo di cambiare i vestiti quasi ogni ora e spendeva tutti i suoi soldi per farsi cucire vestiti nuovi con stili e modelli diversi. Ciao, oggi stai indossando un nuovo abito. Domani indosserai un vestito nuovo? No, no, io non sono come l'imperatore, non cambio i miei abiti. Sì, dobbiamo occuparci delle nostre famiglie. Non possiamo essere così stravaganti come l'imperatore. Egli non si preoccupa per il suo regno, e né per il popolo, e nemmeno per l'esercito. L'imperatore è un egoista. Non ha nemmeno un buon gusto nel vestirsi, ma pretende di essere ammirato da tutti. Possiamo avere altra scelta? Saremo decapitati se non ci piacciono i suoi vestiti. Sì, hai ragione. Una bella mattina arrivarono un paio di truffatori nel reame. Avevano cucito alcuni vestiti per facoltosi uomini del regno. La gente non vedeva gli abiti, non capivano di cosa si trattasse, ma i truffatori vantarono i loro vestiti, così le persone ci cascarono. Dissero che solo i saggi potevano vedere i loro vestiti. Dov'è la mia camicia? Davvero non riesci a vederla? È nelle mie mani! No, non riesco a vederla. Oh no, sei una persona stupida! Siamo i due migliori sarti in tutto il mondo! Solo gli uomini saggi possono vedere ciò che creiamo, non stupidi come te! Diventa saggio e sarai in grado di vedere la tua camicia! Sì, sì, è bellissima! Presto diventarono così popolari che l'imperatore sentì parlare di loro. L'imperatore aveva sentito parlare molto dei due sarti e decise così di indossare alcuni abiti cuciti dai due truffatori. Conduci quei due sarti al mio palazzo. Voglio che tu cuci dei vestiti per me. Siamo onorati di avere questa opportunità. Mettiamo a punto alcuni dei nostri migliori vestiti. I più belli per sua altezza. Tutti saranno gelosi di lei. Sua altezza, c'è qualcosa di speciale nei nostri vestiti. Che cosa? Solo quelli che capiscono il nostro lavoro e sono saggi possono vederli, non quelli inetti o stupidi. L'imperatore pensò che in questo modo potesse capire quale dei suoi consiglieri era inadatto al proprio lavoro nel suo regno. Avremo bisogno di alcune pregiate stoffe di seta. E tanti fili di seta. Vi prego di darci un telaio e in pochi giorni prepareremo gli abiti più belli che Sua Altezza non ha mai indossato. L'imperatore offrì loro un sacco di soldi e ordinò a tutti i suoi uomini di non disturbarli durante il lavoro. I truffatori tenevano per sé tutte le stoffe e i fili di seta nei loro zaini. Avevano sistemato il telaio nella loro stanza e cominciarono a fingere di aver intessuto qualcosa. Tutti i consiglieri erano intimoriti nel sapere cosa avesse in mente l'imperatore. E tu? Puoi vedere i vestiti che hanno cucito? Li ho sentito parlare, ma non li vedo! Cosa succede se non siamo in grado di vedere i vestiti dell'imperatore? Perderemo i nostri incarichi! Passarono alcuni giorni e l'imperatore chiamò il suo primo ministro chiedendogli di controllare a che punto del lavoro fossero arrivati i sarti. Il vecchio ebbe inizialmente paura, ma obbedì all'imperatore e si recò nella stanza del sarto. Mentre andava nella stanza del sarto, il primo ministro pensò: l'imperatore mi ha messo nei guai! E se non potessi vedere i vestiti, mi toglierà tutti i miei incarichi! Il primo ministro entrò nella stanza e vide che entrambi lavoravano con il telaio, ma non notò nessuna stoffa che fosse stata tessuta. Entrambi i sarti accolsero il primo ministro e gli fecero vedere gli schemi realizzati per l'imperatore. In realtà non c'era niente nelle loro mani. Ma il primo ministro non aveva altra scelta che ammettere di vederli. E tornò dall'imperatore. Dimmi, ti sono piaciuti? Eccellenti, vostra maestà! Tutti quei bei modelli sono stati realizzati per voi. Meravigliosi! L'imperatore fu contento. Dopo pochi giorni, mandò due consiglieri per controllare il lavoro che i sarti dovevano completare. Entrarono nella stanza. I sarti mostrarono i vestiti e vantarono le opere d'arte create con le stoffe. abbiamo realizzato il meglio. Una grande opera d'arte per Sua Maestà. Venite, osservate che lavoro di precisione. Sarà magnifico sull'imperatore. Entrambi i consiglieri erano confusi perché non c'era niente che potevano vedere nelle mani dei sarti. Tornarono dall'imperatore, titubanti. Dimmi, come sono i miei vestiti nuovi? Belli, Sua Maestà. Non abbiamo mai visto vestiti così belli in tutta la nostra vita. È il capo più affascinante che potrà mai possedere, Sua Maestà. Bravi! Chiedete quando saranno pronti. Voglio vedere gli abiti prima che siano tolti dal telaio. L'imperatore si recò nella stanza dove i sarti stavano tessendo. Benvenuto, Sua Maestà. Hai terminato il tuo lavoro? Sì, Sua Maestà. Tutti i suoi abiti sono pronti. Eccoli! Detto questo, i sarti agitarono le mani in aria come se stessero portando i vestiti. Essi spiegarono la bellezza dei vestiti nuovi che avevano cucito per l'imperatore. E l'imperatore non poteva vedere niente. E pensò tra sé... Non vedo niente! Significa che non sono adatto per il mio incarico? Perderò il mio trono, allora! Sua Maestà, le è piaciuta l'opera che abbiamo realizzato e poggiato sul suo baldacchino? Per cortesia... Guardi! Sì! Sì, è bellissimo! Mi piace molto! Io non ho mai avuto in vita mia un vestito come questo! Grazie, Sua Maestà! Quando i miei vestiti saranno pronti, sono ansioso di indossarli! Solo un paio di giorni! Porti pazienza! L'imperatore concesse loro 2 giorni e lasciò la stanza. Gli uomini dell'imperatore tenevano d'occhio i sarti. I 2 fingevano di cucire i vestiti senza alcun filo nel lago. Gli uomini dell'imperatore erano confusi nel vederli. Le notizie sugli abiti dell'imperatore si diffusero in tutta la città. Tutte le persone in città desideravano vedere i nuovi vestiti dell'imperatore. Dopo 2 giorni, l'imperatore si recò dai sarti. I miei vestiti nuovi sono pronti? Sì, Sua Maestà. Eccoli! Vedrà che lei sarà la persona più affascinante di questo mondo. Su, via, li indossi. Eccoli! Tolga i suoi vecchi abiti, Sua Maestà! L'imperatore si tolse i vestiti e indossò quelli creati dai 2 sarti. Dopo aver indossato quei vestiti, l'imperatore si guardò allo specchio per ammirare l'abbigliamento. Wow! Non sentirete alcun peso con questi abiti, perché sono così leggeri come una tela di ragno. Le piacciono, Maestà? Sì! Sì! Sono magnifici! Ottimo lavoro, signor ministro? Sì, Sua Maestà. Le guardie iniziarono a stendere il mantello invisibile dell'imperatore e in qualche modo lo seguirono. Fu organizzata una visita dell'imperatore all'interno della città. L'imperatore attraversò la folla. Tutti i cittadini della città guardavano i nuovi vestiti dell'imperatore e lo ammiravano. L'imperatore era contento dell'apprezzamento. Mentre la processione giunse nella piazza centrale della città, ecco che un piccolo ragazzo innocente guardò l'imperatore e gridò: «Guarda, indossa solamente le mutande!» «Ehi, fai silenzio!» «Perché, amico mio? Hai il coraggio di dire la verità? Non indossa nulla!» «Stai dicendo che non indossa nessun abito!» «Cosa vedi? Parla e di la verità di ciò che vedi!» «L'imperatore non indossa niente! È nudo!» L'imperatore fu sconvolto ascoltando quell'uomo. Con grande sorpresa, tutti gli uomini presenti cominciarono a gridare e criticare i nuovi vestiti dell'imperatore. Egli si vergognò, ma non poté lasciare immediatamente la processione. Si rese conto del terribile inganno. Tutti i suoi consiglieri avevano mentito e lodato i suoi vestiti. Non prestò attenzione alla gente che gridava contro le sue vesti. Iniziò a camminare con orgoglio. Le 2 povere guardie lo seguirono. Mentre l'imperatore camminava, tutto il popolo presente alla processione rise di lui. (Susurra)